che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si accende il microfono, sì o no? Si accende, acceso, siamo in onda, siamo in diretta. Fabio Cantadore in regia. Ci siamo? Partiamo? Ok. Primo maggio, qui con voi, naturalmente in diretta. Naturalmente ricorderemo Ayrton Senna, già ve lo dico, alle 15.30, speciale curato da Dario Ricci. Ma intanto siamo in diretta perché... perché Mourinho prende una ripassata storica e io, insomma, sono già qui pronto a prendere le invettive, gli autobus in faccia, e gli insulti e tutto quanto dal popolo delle grigliate. Anzi, voglio sapere che cosa state grigliando in questo momento, questa è la mia priorità assoluta. 800240024. Anche oggi al migliore in campo, primo maggio, andrà la maglietta di tutti i convocati. Migliore in campo tra gli ascoltatori, 800240024. Vi voglio chiedere però innanzitutto due domande. Una è questa: primo maggio 1994, io sono sicuro che ciascuno di voi, tutti quelli che seguono lo sport, si ricorderanno che cosa stavano facendo in quel momento in cui alle 14.17 ci fu quel terribile schianto a Imola. E poco dopo arrivò la notizia della morte di Ayrton Senna. So che questa è un'istantanea che ciascuno di noi che abbiamo lo sport nel sangue porta addosso e porterà addosso sempre, quindi tutti voi lo sapete, mi piacerebbe sentire il vostro racconto. Questa è una cosa. La seconda cosa, Mourinho, allora, io l'ho sempre difeso, è un personaggio sportivo che a me piace da morire, è secondo me uno dei, insieme ad Ancelotti e anche Guardiola naturalmente, il più bravo allenatore del mondo, divide come nessuno, perché Mourinho è una questione di tifo, cioè chi tifa per Mourinho e sono gli interisti, chi tifa contro Mourinho e sono tutti gli altri. Mourinho è un personaggio che divide, secondo me è uno straordinario allenatore e la sconfitta di ieri sera meritatissima non toglie nulla a ciò che ha fatto nella sua carriera e a ciò che sono certo tornerà a fare. Ha preso una ripassata storica, è stato grigliato. Cosa state mangiando? Cosa state grigliando in questo momento? 800240024, ditemelo. Ha preso una ripassata storica senza troppe attenuanti, non è una questione di episodi come ha raccontato lui in conferenza stampa per ovvie ragioni di ruolo, non è stata una questione di episodi, cioè di una parata del suo portiere che giocava con l'altra maglia, e ricordate bene anche questa storia, non è una questione di una parata di qui e di un rigore subito che peraltro c'era. Bravissimo Rizzoli, tra parentesi, bravissimo Rizzoli ieri sera. Non è questione di questi due episodi, è questione di una partita che Mourinho secondo me non ha interpretato bene, preparato bene. Poi possono esserci attenuanti generiche del caso, le mille assenze, una rosa ridotta all'osso e che non è neanche secondo me particolarmente competitiva. È questione di una partita che l'Atletico Madrid ieri sera ha sinceramente dominato, l'autobus del Chelsea, che è stato ovviamente, che in questi momenti viene preso a pallonate da tutti su Twitter, ce ne sono già insomma miliardi di tweet sull'argomento, l'Atletico Madrid a pallonate ha scassato quell'autobus. Non è questione di tutto questo, fatto sta che quell'autobus è stato demolito dall'Atletico Madrid, che in questo momento è la squadra del destino. Ed è la squadra che mette d'accordo anche tutta la Madrid del calcio, perché io ne ero sicuro, Filippo Maria Ricci ieri da Madrid me lo ha confermato, tutta Madrid ieri sera tifava Atletico, vuoi ovviamente i colchoneros da una parte, vuoi dall'altra parte i madridisti che non volevano per nessuna ragione trovarsi contro in una finale così importante che vale la decima quello che è diventato ora il principale nemico, cioè proprio José Mourinho. Io saluto e ringrazio, è venuto a trovarmi anche il primo maggio Tancredi Palmieri, corrispondente italiano di Bein Sport, infiltrato di Altani. Addirittura, magari. Del Paris Saint-Germain. Magari. Senti. Anzi, se mi sente, io sono qua, c'è problema. Senti, ma chi te l'ha fatta fare di denunciare la grigliata del primo maggio? Perché siccome facciamo il suo lavoro, non esiste grigliata del primo maggio per me. Anzi, tant'è che stiamo qua. E lo guardo, ero a San Siro perché noi, vabbè, Bin, ovviamente c'è domenica sera, c'è Milan-Inter, per cui stavamo preparando e registrando tutte le varie preview della partita, del derby, come ci si avvicina. Chi la vince? Ma io vedo un po' delle brutte vibrazioni per l'Inter, perché sembra quasi che sia una sconfitta annunciata per il Milan, per come va, però non credo che sia così. Alla fine Seedorf ha sbagliato, sì, l'ultima, però per il resto le 5 vittorie consecutive, se ci ricordiamo in casa contro la Juventus non fece mica brutta figura Seedorf, siccome comunque sia la squadra... Tanto lo licenziano. No, appunto, per questo dico, però la squadra comunque sta performando, come direbbero in inglese, per cui... Sono curioso di... Sì, io sono d'accordo, Milan potrebbe intascarsi questo derby, poi vediamo che cosa dicono, perché tanto Seedorf lo devono mandare via. Sì, comunque sia, perché una volta che prendi fai una scelta come dare quell'intervista, dove è vero che non ha detto niente di che, però è già il darlo che... Una scelta politica, sai come sono le cause di divorzio, no? Cioè questa è stata un passaggio, adesso Seedorf ha chiamato gli avvocati, anche questo lo saprai, no? Ha chiamato gli avvocati, Galliani ha detto, aspetta, cos'è che ha detto? Adesso te lo dico. Roba recente? Sì, roba di oggi. Galliani ha detto, non trovo più la sua dichiarazione, però certo che è un peccato però che finisca ad avvocati, cioè va bene tutto, però ma scusate, non c'è un motivo. È un'ulteriore indicazione La spieghi, non c'è un motivo. Vabbè, gli esoneri esistono, però una volta che esoneri devi pagare, se addirittura poi stai a vedere là, no, non ti voglio pagare quello che rimane, non sarebbe successo prima al Milan, è vero che è facile dirlo, però prima non sarebbe successo al Milan, prima lo stesso Berlusconi avrebbe detto ma non facciamo questa scena, tanto più con una persona che appartiene alla storia e alla galleria dei trofei del Milan, andata come andata. Però allora, ieri Galliani era a Milanello ma non si è sbottonato sul contenuto dell'incontro, ho preso solo un aperitivo, è meglio che non parli altrimenti perdo la causa. No, ma dai, forse era... Ah no, detto così. Ma secondo... Altrimenti perdo la causa. È stato l'unico commento ironico consegnato a Sky, accompagnato da una risata. Ma dai, ma è evidente che... Tu dici che finirà a carte bollate? Finirà certamente a carte bollate, anche perché l'intervento di Seedorf dell'altro giorno è stato chiaramente una dichiarazione di intenti, cioè non c'era nessuna altra ragione se non quella di mostrare al mondo un contratto di 2 anni e mezzo, mezzo era quello di quest'anno, e i 2 successivi, a dire ok, se mi mandano via qui ho 2 anni di contratto. Questo io è vero. Sono allenatore del Milan. Due settimane fa gli ho chiesto, peraltro era, fai conto, tipo 00:15, per cui l'ultimissima intervista che doveva dare Seedorf dopo la partita, ho detto vediamo se riesco a farmi mandare a quel paese da Seedorf. Lui però è stato gentilissimo, ha detto un'ultima cosa prima che lei lasci San Siro stasera, mi può confermare che lei il prossimo anno sarà l'allenatore del Milan? E lui mi ha fatto, io posso confermare che ho un contratto di 2 anni, certo. E quindi lui questo ha detto. Guarda che devi andare a testimoniare, quando va bene, perfetto. Quando c'è la causa ti prendi davanti al giudice, causa di divorzio col magnetofono, e devi testimoniare a favore di Clarence Seedorf, che ha 2 anni di contratto, che viene mandato via, viene licenziato, peraltro secondo me, adesso vediamo come va a finire, però senza giusta causa, perché secondo me in Europa già arriva con quel 6° posto che è o meno del minimo sindacale, però alla fine arriverà lì e verrà mandato via per questioni politiche, di politica sportiva. Comunque nel giro di 5 minuti mi hai detto che ero infiltrato di Nasser, testimoniare se hai qualche cosa dal mio passato. Sì, ho molte cose sul tuo passato, ovviamente, come su tutti gli ospiti di tutti i convocati, abbiamo un ampio dossier, 80024, 0024, anche sugli ascoltatori ho diversi dossier, ma da infiltrato del Paris Saint-Germain, io leggo anche che a Parigi ci dicono, oh, ce l'avevamo in mano, ce l'avevamo in casa, abbiamo lasciato andare via. Chi, Tancredi Palmieri? No, chi altro? No, Carlo Ancelotti. Eh beh sì. Vabbè, però devo dire che è stata un po' riportata in maniera non perfetta, perché alcuni hanno scritto pentito del, se si sono pentiti dell'esonero. Quale esonero? Cioè, Ancelotti ha avuto la proposta che già due volte si era palesata nel corso della sua carriera. Tutto sarebbe dipeso da come sarebbe andato la Champions League, però insomma era quasi sicuro che sarebbe andato al Real Madrid, a meno che non avesse fatto una semifinale, una finale col Paris Saint-Germain che giustificasse un riprovarci un'altra volta, ma Nasser e il Paris Saint-Germain l'avrebbe tenuto tutta la vita, ma Ancelotti ha detto vado, e hanno ricevuto anche un conguaglio piuttosto sostanzioso a Real Madrid, sì, fatto di amichevoli e altro, ma intorno alla decina di milioni di euro. Giusto monetizzare, giusto. Poi siamo in epoca di quella buffonata che chiamano fair play finanziario, quindi giusto monetizzare tutto. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. Niente paura. Noi non conosciamo la parola paura. Questo che sia chiaro, conosciamo la parola rispetto, rispetto nei confronti degli avversari che si possono chiamare Benfica, così come si possono chiamare eventuali avversari di Serie B. Quindi paura non esiste, non fa parte del nostro vocabolario. Ripeto, sappiamo quello che dobbiamo fare, e da questo punto di vista sono molto fiducioso, sapendo che avremo lo Juventus Stadium alle spalle, che domani ispirerà forte e scenderà in campo con noi, ecco. Ma io penso che anche noi abbiamo dei tifosi in Portogallo, ecco. Io penso che, cioè, il Benfica è un po' la Juventus del Portogallo, quindi o tifi Benfica o tifi contro, quindi il Benfica avrà tantissimi tifosi in Italia e noi avremo tantissimi tifosi in Portogallo. Allora, posto che io sono favorevolissimo al gufismo nel calcio, sono un sostenitore del gufismo nel calcio, perché è così, io voglio convocare chi interista o milanista questa sera ti farà Juventus, e poi non mi venite a raccontare il ranking UEFA, perché tanto non ci credo. Nel frattempo saluto e ringrazio Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Ciao, buon pomeriggio, e non ci credo neanch'io. Ma stai scherzando? Ma è giusto così? Ma poi cosa c'è di male? O no? No, beh, è vero, cosa c'è di male? Sono d'accordo, e anche il pepe e il sale della amare le proprie squadre. Detto questo, però, invece c'è da preoccuparsi per il ranking, che questo è veramente una cosa molto molto delicata, perché sai, la Champions per noi è importante, i posti in Champions sono fondamentali, soprattutto per un discorso economico, quindi ci sta la gufaggine, però speriamo, indipendentemente che io sia juventino o no, che la Juve faccia benissimo, appunto per questo ranking che ci sta un po' sfuggendo dalle mani. Sì, vabbè, lo dici tu perché sei juventino, tutti gli altri diranno, vabbè, ranking, se la Juve esce, poi il ranking ci pensiamo da domani, vediamo cosa succede. Senti Alessio, ma cosa stai grigliando? Perché Pardo non riesco a trovarlo, sta grigliando un bue intero. Tu cosa stai grigliando? Non ho capito, scusami. Cosa stai grigliando? Primo maggio? Non stai a fare la grigliata? No, io sono in un campo di calcio, sto guardando mio figlio, sono vivo per il calcio, e devo dire che però sono anche molto impaziente per vedere questa partita, perché siamo passati da due giorni fantastici di Champions League a, secondo me, un'altra grande serata, perché posso paragonarla a un buonissimo quarto di finale. Stasera sarà una partita molto molto bella, molto aperta, con buonissimi interpreti. Sì, come gioca il bimbo? Come gioca tuo figlio? Gioca bene, gioca in mezzo al campo. Ma va, strano. Ha della bella qualità, non c'ha la cattiveria del papà. No, vabbè, ma a questa età, 8 anni, devono divertirsi. Devono divertirsi, perché la cosa veramente importante, è uno sport talmente bello che devono divertirsi. Senti Alessio, ciao, Tancredi Palmeri, ma secondo te Vidal, che dovrebbe giocare, almeno così si dice, però c'è anche, è vero che Conte ha detto sì, ci pensano i cileni al mondiale, noi dobbiamo pensare prima alla partita, ma secondo te un po' ci pensa nel mettere la gamba al mondiale? Ma guarda, ci sono già giocatori che arrivati a questo punto potrebbero veramente pensarci. Non penso che sia il caso di Vidal, perché ha sempre dimostrato un grande attaccamento, una grande fame, una grande voglia. Non penso che penserà al mondiale. Se andrà in campo è perché ci tiene, darà il massimo. Non mi sembra un giocatore che pensa. È vero anche che c'è tanti giocatori invece che arrivano a questo punto, tirano un po' le somme e infortunati o mezzi problemi si gestiscono. Smentisco categoricamente, secondo me, che Vidal possa pensare a quello. È un cuore Juve, giocherà alla morte questa partita. Sì, lo penso anch'io, anche perché in una semifinale poi così importante per la Juventus, perché continuo a dire non è una questione di dettagli, di coppe minori, eccetera. Cioè, ogni grande squadra, e tu lo sai bene perché ne hai fatto parte, no, di grandi edizioni della Juventus, ha bisogno di una cornice europea per coronare un ciclo. E la Juventus ha assolutamente bisogno di questa coppa. Guarda, io penso, sono d'accordissimo, penso che sia fondamentale vincere, perché vincere aiuta a vincere. La Juve quest'anno, la sensazione che ho io, che il campionato italiano non la stia migliorando a livello europeo. È un calcio troppo tattico, un calcio troppo lento. Io penso alla partita col Bologna, vince 1-0, il Bologna non attacca perché vuole stare lì e aspettare magari un calcio piazzato. Non va bene in Europa, perché poi trovi un Benfica, che è vero che è una squadra importante, una squadra forte, gioca la partita a tutto campo, quindi un ritmo velocissimo. La Juve ci mette sempre quei 15 minuti ad adattarsi a quell'intensità, perché la Juve è una squadra europea. Sì. Però veramente è un calcio importante, è un calcio veloce. Io però sono convinto che questa sera la Juve passi il turno e deve vincere, anche perché se vince la Coppa va a fare la Supercoppa europea. Ma chiaro, ma è un'altra storia, è un'altra dimensione per la Juventus, ma anche per Conte. Alessio, Atletico Madrid, no? Ha fatto lo stesso percorso, ha vinto. Certamente. Quindi, senti, Alessio, ti chiedo un attimo di pazienza, che ho il traffico anche al 1° maggio. Poi ti chiedo un favore, dammi una mano a difendere Mourinho. Tutti convocati. 1° maggio 14:17. Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita. E correre per me è un modo di vita, correre per me è un modo di ridere, è un modo di piangere, è un modo di espressare i miei sentimenti. 1° maggio 14:17 1994, lo schianto di Ayrton Senna contro un muretto della curva Villeneuve a Imola. Adesso Tacchinardi, che stavi facendo in quel momento? Non mi ricordo se forse mi allenavo, c'era una partita, ma è stata una notizia tragica, tremenda, di un personaggio che comunque ha fatto la storia. Devo dire che bisogna che adesso veramente quanti anni sono già passati, ho ricordo di un personaggio così forte, vuol dire che era veramente un personaggio di grande carisma e umanità, una persona fantastica. Sì, come ho detto molte volte nei giorni scorsi, ognuno di noi ha un'istantanea, cioè una Polaroid in tasca di quel momento, cioè il momento in cui è successo quell'incidente di Senna, e tutti ce lo ricordiamo come nei grandi momenti che hanno segnato veramente la nostra vita, perché è stato così. Senti, adesso dammi una mano invece a difendere Mourinho, perché io per me Mourinho è il più grande allenatore del mondo, poi mettiamoci Ancelotti, mettiamoci Guardiola, mettiamoci chi vuoi tu, però Mourinho è a quel livello lì. Ieri sera ha sbagliato completamente, secondo me, la partita, forse nella preparazione, certamente nella gestione, forse anche nei cambi. È stato giustamente sconfitto da Simeone, non per una questione di episodi, però questo nulla toglie alla sua grandezza. Sono d'accordo, nulla toglie la sua grandezza, però vado un po' controcorrente. I numeri non parlano di allenatore migliore del mondo, perché è andato in semifinale, mi sembra, 5 volte consecutive, è andato in finale una volta negli ultimi anni. Io penso che sia il più grande motivatore, ma a livello di metodologia di allenamento, adesso non voglio discutere Mourinho, però ieri ho visto una squadra, l'Atletico Madrid, più squadra, più con dei principi di gioco, Secondo me Mourinho è un grande motivatore, è un allenatore che ti fa lavorare molto sui singoli, molto sulle motivazioni, molto su scariche di adrenalina. Però ieri l'ha battuto un allenatore che ha messo in campo e ha fatto giocare bene a calcio. Le squadre di Mourinho non hanno mai entusiasmato, impressionato, come non so, il concetto di Montella, di Conte, sì, di Simeone, con un bel gioco. Sempre, ricordiamoci anche l'Inter, grande forza, grande ambizione, grande cattiveria, grande adrenalina, grande scosse elettriche, però mai con principi di gioco, non ha mai entusiasmato col gioco. Però che sia il più grande motivatore del mondo, sono d'accordo. Che sia il più grande allenatore del mondo, non sono d'accordo. Ma volevo chiedere a Alessio, siccome il Chelsea ieri è entrato papa in semifinale, anche quasi nel secondo tempo, perché ha preso il gol alla fine del primo tempo, vinceva 1-0, insomma una rimonta allo Stamford Bridge con Mourinho, roba quasi inusuale, però questa meccanica della squadra favorita che deve per forza vincere, siccome io mi ricordo voi avevate vinto la finale quando eravate alla pari con l'Ajax e poi invece quando partivate da favoriti con Borussia, con Real Madrid, e invece la prestazione fu differente. C'è una sorta di meccanica in campo che entra e dice: vuoi vedere che alla fine questi ci fregano? Ma io non so ieri se il Chelsea fosse il favorito, onestamente, perché io guardo le partite. Capello diceva una cosa sacrosanta: parla sempre il campo, e il campo parla che al Vicente Calderon, una squadra voleva giocare a calcio, voleva fare la partita. È vero che ha concluso poco perché l'altra gliel'ha impedito. Io sulla, adesso onestamente, indipendentemente dei nomi e tutto, questa squadra, il Chelsea, non è più forte dell'Atletico. No, io parlavo solo sulla carta, infatti, proprio per sì, quello. Sì, sì, io poi ripeto, su un discorso personale, a noi è successo e purtroppo l'abbiamo pagata pesantemente, che hai sulla carta sei più forte, quindi dai anche, senatore degli altri, anche bravo, riesci a toccare dei punti importanti per caricarti ancora di più, quindi c'è più pressione, perché sei più forte, c'è più pressione, e la sensazione a volte ti può venire anche il braccino. Però ieri ho visto veramente un allenatore stratosferico, dove veramente sta costruendo, sta facendo una cosa eccezionale, e pensarlo in Italia e averlo mandato via, insomma, è veramente un rimpianto. Non è possibile che noi abbiamo allenatori importanti, li andiamo sempre a criticare, sempre tutto. Se noi parliamo sempre che noi in Italia giochiamo troppe partite, cioè turnover, io vedo che l'Atletico Madrid giocano da tutto l'anno 200 all'ora tutte le partite, sono primi in Liga e sono in finale di Champions League. Quindi sarà qualcosa che non va nel nostro campionato, nella nostra cultura, nelle nostre tensioni che diamo a questi giocatori, perché vedo che a Real Madrid giocano a 200 all'ora tutte le partite, e con Thiago che noi in Italia l'abbiamo quasi denigrato come giocatore. Sì, questo è vero. Poi molti maliziosi diranno: però guarda caso, gli spagnoli, sia Atletico che Real, arrivano alla fine dell'anno, giocano 200 partite e corrono come le Iene, cosa che non succede in altri campionati. Però questi sono i maliziosi che giocano a 200 all'ora. 200 partite, io ho giocato in Spagna. Sì. Allora, parliamo del presupposto che sarebbe da fare un dibattito che dura mesi, anni. Sì. Il gol che ha fatto Lima del Portogallo, del Benfica, un gol euro gol, in Italia avrebbe parlato per una settimana al procuratore, avrebbe parlato alla fidanzata, la moglie, l'allenatore, tutti, e avevano fatto diventare Lima un fenomeno del calcio mondiale. Sì. In Portogallo, come succedeva a me nel Villarreal, fai un gol del genere, il giorno dopo ti dicono: passa Nadar, va bene, vai avanti, bravo, bravo e punto. Quindi tu vai avanti, pedali e vai. Quindi in Spagna giocano le partite, si divertono ancora. In Italia noi siamo tanto fare tanti personaggi, però se noi valutiamo bene, la Juve con 93 punti punti, gioca stasera col Benfica e può succedere di tutto. È più forte, ma non grandissimamente più forte del Benfica. Quindi vuol dire che il nostro livello italiano, c'è tanto cinema e poca sostanza, poca qualità. Bisognerebbe cercare di esaltare meno i giocatori e fare lavorare di più e pedalare di più, perché in Europa giocano i 93, classe 94, classe 95. Noi a volte parliamo del giovane Immobile che tante no, ma dai, questa cosa non ha senso. Questa cosa 24 anni. Non ha senso, infatti non ha senso. 24 anni uno è un giocatore. A 24 anni uno deve essere un giocatore. Infatti a Balotelli si possono trovare delle attenuanti, anche volendo, certamente non il fatto di essere giovane. Perché certamente niente da un con anno Immobile, perché sono contento che sia esploso, ma attenzione, Totti, Nesta, Cannavaro, Del Piero, a 18 anni giocavano titolari in Serie A e facevano la differenza. Adesso dobbiamo aspettare che abbiano 24-25 anni e maturato, cioè 24-25 anni in Europa hanno già fatto 350 campionati. Ma scherzi, ma non, questo non esiste, è un discorso che vale un po' per tutti i settori del nostro paese, ma questo lo sappiamo bene. Ma quindi anche un po' di dibattito. Troppo potere procuratore in Italia? Sì, sì, sì. Ma guarda, io penso che dobbiamo fermarci un attimo a tavolino e fermarci e valutare. Adesso ci sarà il Mondiale, vediamo come va il Mondiale, ma dopo dobbiamo fare qualcosa, perché non stiamo facendo passi in avanti, però gli altri ci stanno superando tutti, gli altri fanno giocare 94-95 in campo, con tutto rispetto, il Milan ha vinto il Viareggio, Barbara Berlusconi parla di orgoglio, di grande crescita del storico giovanile del Milan, nel Milan non gioca un giovane storico giovanile che ha giocato al Viareggio, Cristante, Petagna, quindi se vogliamo dire grande Viareggio, bravi, tanto di cappello, ma non gioca nessun giovane in Serie A nel Milan, quindi il Viareggio sarebbe la manifestazione più importante che c'è, l'ho fatta anch'io, Atlanta l'anno dopo ci ha mandato dentro, c'è troppa pressione, c'è troppa pressione, c'è troppa aspettativa, e in altri il Lione gioca con 6,93 in campo e ce la gioca più o meno alla pari con la Juventus. Sì, volendo ci sono anche gli allenatori che insomma gli allenatori italiani che hanno paura comunque a lanciare i giovani, ma per ragioni di pressione i procuratori ci mettono del loro, perché Barbara Berlusconi dice perfettamente una cosa giusta, che anche i procuratori, sono troppi procuratori in giro nelle società, in giro di qua di là, dovrebbero far giocare i giocatori e pedalare, questa è la mia impressione. Grazie Ale. Ciao, grazie, buon pomeriggio. Grazie Alessio Tacchinardi. Allora, sentite questo, messaggio SMS 349-238-6666, anche oggi 1 maggio in diretta con voi, sentite questa. Io quel 1 maggio ero, ironia della sorte, in Brasile. Ricordo che non ero davanti alla TV in quel momento, ma fu come se l'aria si fosse fermata. L'aria si fosse fermata in quel preciso istante. Dopo qualche minuto cominciai a incontrare gente che piangeva, che si abbracciava. Capii che era accaduta una tragedia, ma seppi quale solo più tardi. Ciao Ayrton. Dove eri il 1 maggio del 94? Io ero davanti alla televisione. Quanti anni avevi? Avevo 13 anni, ricordo che era, appunto, era domenica, e visto che insomma erano i primi soli, mi ricordo che avevo detto facciamo la partita di tennis la mattina presto che poi c'è il Gran Premio. E mi ricordo che all'inizio mi caddero veramente le braccia, e però nei primi momenti fui quasi rincuorato, perché forse alcuni si ricordano, poi ci fu spiegato che fu semplicemente uno spasmo del corpo che stava reagendo, ma dopo pochi secondi dall'impatto, quando c'era l'immagine dall'alto dell'elicottero, si vide il corpo di Ayrton Senna che si vede un movimento della testa, e io mi ricordo dal telefono immediatamente chiamai un mio amico e ho detto ma hai visto cosa sta succedendo? Poi vidi questo movimento e dico ah no, va bene, dai, sta bene, si è mosso, se no non si sarebbe mosso. E poi continuava, arrivava, mi ricordo questo telone, questa fu la, anche perché il giorno prima era stato uno shock perché avevo 13 anni, quindi la morte di De Angelis, De Angelis, che era stata l'ultima in Formula 1, era troppo lontana nel ricordo per essere una cosa viva, e fu uno shock vedere che la morte era ancora possibile nei Gran Premi. E quando vidi questa immagine di questo telone, era sull'azzurrino che veniva alzato per poter operare, perché faceva una tracheotomia a Senna, per poter oscurare le telecamere, non ci potevo credere, dico non ci credo, nel 94 non ci credo che sta accadendo davvero adesso. Non ci credeva nessuno. Ci fermiamo un attimo, Domenico da Firenze, stia lì, 800 24 00 24, il numero verde. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Allora, oggi ovviamente faccio raccolta di istantanee. Abbiamo sentito quello di Tancredi Palmieri, Franco Piantaneda che ha una voce di questo programma, e adesso mi dà la sua. Allora, mia... 1 maggio 94. Guarda, me lo ricordo perfettamente, perché ma naturalmente vidi il Gran Premio in televisione, ma intanto nelle orecchie con gli auricolari ascoltavo l'ultima partita di campionato. Mi ricordo c'era Milan-Reggiana, Milan già scudettato, perse quella partita. Io dopo il Gran Premio, dopo Milan-Reggiana, andai a giocare, giocavo nei Pulcini, persi anche quella partita dei Pulcini. tornando a casa, mia mamma fuori dalla porta della cucina, giuro, me lo ricordo veramente come se fosse stamattina, mi disse: beh, dai, com'è andata oggi? E io dico: mamma, un disastro, è morto Senna, ha perso il Milan, e ho perso anch'io la partita. E non mi ricordo se mangiai quella sera, devo essere sincero. Io non mangiai, è vero, io me lo ricordo, non mangiai tutta quella anch'io. Sera, non mangiai nemmeno a pranzo il giorno dopo, tornando da scuola, il giorno dove, ti raccontavo nell'intervallo, che la nostra professoressa di matematica, io rischiavo di essere rimandato perché ancora si erano rimandati a settembre, che teneva in assoluto silenzio tutta la classe, esordì alla prima ora il lunedì dicendo: ma io non capisco come si possa paragonare la morte di Senna a un Fermi, a una Stein. Io, che logica avrebbe voluto che mi stessi zitto perché rischiavo la rimandatura, e se avessi parlato sicuramente mi avrebbe rimandato. Non mi tenne il fuoco, esplosi e dissi: ma come, che sta dicendo? È uno che ha tracciato una strada, che ha dato un esempio, uno sport che ha fatto, nessuno lo sta paragonando a uno scienziato, ma lo shock per aver perso così presto. E io dico: ora mi caccia, mi espelle alla scuola, mi sospende, qualsiasi cosa. E invece rimase in silenzio e la dissi: ah, forse ho detto qualcosa di giusto. Dai. Domenico? Sì? Buongiorno. Grazie per la convocazione. Buongiorno. A lei. Ecco, io no, sono più leggero, insomma, intervenivo per la Juventus. Sì. E davvero antijuventino, stasera io tiferò Juventus, ma perché? Solo per vedere. Lo so, aspetti, glielo dico io perché. Posso? Sì. Vediamo. Prego. Se indovino? Sì. Perché vuole vederla perdere in finale in casa? Esattamente. Sandero. Come è molto difficile, stasera giocherò anche il risultato esatto, giocherò sia l'1-0 che il 3-1 per la Juventus, cioè è difficile di farla, quindi ho bisogno di questo incentivo. Anche perché quindi, l'ultima squadra che ha giocato la finale di Coppa UEFA in casa è stato lo Sporting Lisbona nel 2005 e l'ha persa in casa contro il CSKA. Perché la finale in casa è una brutta roba. Mamma mia. È una cosa difficile, una cosa complicata. Però vabbè, questa era scontata. Quindi lei, allora, lei gufa stasera perché poi vuole vederla perdere in finale. Nel frattempo si gioca la vittoria e il passaggio al turno della Juventus, così. Esatto. Se è perfetto, ma genio assoluto. Così se la Juventus va in finale, si gufa la prossima volta. E nel frattempo si incassano i soldi per andare a mangiare la pizza. Così. Esattamente. Scommette sia sul rosso che sul nero. Meraviglioso. Ha vinto comunque. Ha stravinto domenica. Bufos. Come si dice in portoghese, gufi, os bufos. Allora, Domenico, le faccio sentire una cosa. Simeone, sì, che ha ringraziato le mamme dei suoi giocatori. Senta. Wow. Solamente una cosa, quería. No dejar una situación que quiero decirla, agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid porque los hicieron nacer con unos huevos así grandes. I want to congratulate the mothers of these players because they gave them big cojones to play in the way that they played today. Mi piace il traduttore che non voleva dire balls, big cojones. Beh, insomma, il senso mi sembra evidente, no? Se qualcuno non l'ha capito, allora grazie alla mamma di questo giocatore che ha fatto dei ragazzi con due palle così. Che palle, come si debba a Napoli. Ma sì, ma ci sta assolutamente. Ma poi, voglio dire, grande trionfatore di questa partita. Detto questo, secondo me, finale Atletico Madrid Real Madrid Atletico Madrid 4-0. Il Real la può solo perdere, No, posso perdere. Secondo me la stravince. Sì. Avrei avuto qualche dubbio in più in caso di finale contro il Chelsea, contro Mourinho. Potete dire quello che volete. Chi la vince, Piantanera? Tu sai che adesso tutti gli ascoltatori scommetteranno contro di te questa cosa. Io compreso, dato i tuoi precedenti. Ma è naturale, ma io vivo apposta per questo. Io ho fatto una promessa: se l'Atletico Madrid vince la Champions League, non mangio pizza per due mesi. Noi lo seguiamo. Facciamo un reality su Tancredi, fa fare? Perché io che te frega? Per l'Atletico, ma io, che te frega? Per l'Atletico e per Simeone, per gli underdog io ci muoio veramente, per cui. E poi adesso mai più. No, io tifo Ancelotti, ma proprio. Ma tanto lo rivincerà un'altra volta. Non me ne frega niente. Non mi importa, non me ne frega niente. Chi sta parlando? Io, Mario, fa il bravo. Tifo Ancelotti con la bandiera fuori dalla finestra, voglio che vinca la Champions League. La decima per il Real, non mi importa se poi ci potrà essere un'altra occasione. Io tiferò Ancelotti in maniera selvaggia. E poi Real Madrid è il simbolo del. Non capisco niente di calcio, capirai te. Parla a giocare, va. Real Madrid è il simbolo del poderio, comprano tutto l'oro. Tu pensa a 652 milioni di euro da quando Perez ha ripreso la squadra. Bene. Fantastico, sono favorevole ai presidenti che spendono molti soldi. Anche io, però sono anche favorevole all'Atletico che vince. No, non importa niente, io sono favorevole ai presidenti che mettono un sacco di grano e che comprano i grandi campioni. Allora? Io sono qualcosa... tutta la vita per gli underdog. Io spero che l'Atletico anche... e adesso mai più, anche perché se ne va Diego Costa, chissà. Vabbè, che non se ne vada più, non posso dirti, non me ne importa niente l'Atletico Madrid. Cioè, io voglio che Ancelotti vinca la decima con il Real Madrid straricco. E poi ti assicuro, se avete una partita in mezzo ai tifosi dell'Atletico Madrid, sono divertentissimi. Ma non ho dubbi, ma gli voglio bene, andiamo. Comunque siamo 2-1. Io sto con Tancredi, ma è una storia troppo bella per essere vera. Cioè, è, sì, purtroppo il calcio è quando è così romantico, poi alla fine diventa esageratamente cinico. E quindi io spero Atletico, ma credo che... Come il Borussia Dortmund l'anno scorso, che sì, gli segna all'ultimo minuto il Bayern. Beh, è più forte, ha più soldi, spende di più, compra i giocatori forti. È per questo che uno almeno deve tifare per quelli che non ce la fanno. Ma perché? Ma no, io tifo per le squadre forti che mi divertono. Ti diverti un sacco. Ieri è stata una passata. Ma ieri tifavo per Mourinho, quindi vedi te come mi sono divertito. Sono incazzato come una pantera. Comunque Mourinho, posso dire una cosa, ha perso perché ieri non aveva una tuta esageratamente brutta, no, come le altre volte. E si era fatto la barba, quindi era meno povero del solito. Mourinho con la tuta a me fa sembra impazzire. Sai quei compagni in terza media che vengono con la tuta di 2 anni prima, che non hanno comprato con la nuova? O Mazzone. Esatto. Se Mourinho informato Carletto Mazzone, non so cosa dire. Cioè, a Milano si vestiva Prada, ultima moda. Adesso vengo sotto a curva e... ma dai, Mourinho con la tuta vuol fare il povero. Poi c'è chi dice, prima ho chiamato Andrea Sorrentino, cui avevo, insomma, oggi 1° maggio rivediamo tutto. Allora, Andrea Sorrentino l'altro giorno mi ha detto, conferenza stampa, Mourinho queste cose, oggi, sai che oggi ha fatto allenare Cech, Rotto, ha fatto allenare Terry, domani lo fa giocare, che califo che è. Ho detto, prova a chiedergli perché mette sempre la tuta. Ha provato a informarsi, ha detto che è per questioni di, banalmente questioni di marketing, perché così si vede più il logo. Io non ci credo, neanche se me lo dice Mourinho. Lui aveva un impermeabilino quando era al Chelsea, quello tagliato, che era pazzesco. Della famosa pubblicità anche, esatto, della carta di credito davanti a casa sua, del esatto. Lui aveva un impermeabilino che ha fatto tendenza, chissà che l'Adidas non gli abbia detto, non gli abbia detto mettete la tuta, come adesso si vediamo se fa l'Adidas, la Nike o la Reebok, le dico tutte così, sì, non sì, Puma, Puma, Asics, Lotto, italiani. Poi c'è nome di K. Beh, c'è la Macron, attenzione, Macron. Il Norwich giocherà al Macron Stadium, no, il WBA forse. Sì. C'è anche Macron, una cosa che si chiama Burda, che secondo me è quella che ha fatto la migliore maglia dei mondiali. Guardate le maglie del Belgio, la prima con la corona e la seconda pazzesche, veramente. A me piace più quello che c'è sotto le maglie del Belgio, secondo me è grande squadra. Ah, pensavo parlassi delle WOGs, delle fidanzate, quello sotto è le maglie. No, però voglio vedere chi tra tutte queste che abbiamo citato e anche le altre con cui ci scusiamo ci manda un presente. No, metterà il logo sulla maglietta con la banana. Che... No. Ma vediamo, voglio vedere che quest'estate costerà, l'ho detto ieri, €29,99 nei vostri negozi preferiti, oppure, non so, €39,99 o quello che vuoi, però se vai su internet magari la trovi a 20,99. Pensa come davanti, 10 anni fa, quando ero uno sgarzetto in giro, che c'avevo questa maglia, che c'era questa banana, e dietro c'era scritto de puta madre, per cui era proprio, vedi? Alessandro da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Posso fare gli stessi complimenti, sono molto contento di essere stato convocato, perché vi sento tutti i giorni, parlate dello sport con la gioia e come se fosse un gioco, è un piacere ascoltare. Come se ci piacesse davvero, e infatti ci piace. E infatti anche a me è stato ascoltarvi. Allora, innanzitutto ti voglio aiutare nel difendere Mourinho a spada tratta, perché è un vincente. Vai, fuori lo spadone! Fuori lo spadone! Lui è il vincente, guarda, io sono romanista, però è... Da giocatore posso capire come lo amino e perché porti le squadre. Ma infatti, ma fosse un giocatore, ma vorrei lui tutta la vita, gli do il sangue per una stagione, vinco la Champions League probabilmente, se no se va male arrivo in finale, perché tanto ci arriva tutte le volte, no? E poi vediamo. Poi soprattutto la sfida della finale di Champions League è veramente marxista, è lotta di classe allo stato puro, l'Atletico contro il Real, la working class contro ma non buttarla in politica, sa, vabbè, che è il 1° maggio, cosa fai oggi? Adesso sono sul traffico e sto aspettando di andare a Grosseto. Sul traffico, adesso ti diamo anche le informazioni, tra un attimo, stai aspettando di andare a Grosseto, infatti. Cosa vai a fare? La mia ragazza mi aspetta lì col bastone in mano, perché sto con 1 ora e mezza di ritardo. Cosa si va a fare a Grosseto, dai, voglio dire. Vuoi che ci parlo io? Sarebbe chiamaci guarda, quando sei con lei. Chiamaci quando sei con lei. Quando sei con lei, chiamaci. Bene, o se no, facci chiamare, ci parlo io. Vai tranquillo, ti giustifico io che ho una certa esperienza. Sì. Grazie del pensiero. Un abbraccio e complimenti a tutti. Comunque, ieri sera hanno chiesto a Simeone se si sentono ancora la squadra povera, quella di poveretti che non vincono mai. Ce l'abbiamo il file. Marilena, ma cosa stai dicendo? Che Genta, stai con le squadre forti e ricche perché sei schiavo dei poteri forti, fascistone. Addirittura. Marilena, ti voglio bene, ma non è così. Ma ho visto che hai no, sul braccio un tatuaggio con Che Guevara al bar, per cui com'è possibile? Che Guevara? Al bar. Che mi sembrava di aver intravisto. Sentiamo un attimo cosa ha detto Simeone ieri sera quando gli hanno chiesto se non sono più i poveretti di Madrid. Siete ancora i cugini poveri dopo questa stagione? Noi sappiamo quello che siamo e quella è la nostra forza. Segreto. Non ce l'ha detto. Non ci ha detto quello che sono veramente, però lo sa lui, no? No, ma poi ho sentito anche una dichiarazione di Diego Costa ieri sera dire sarà una finale tra due grandi squadre. E guarda che non è banale, eh? No. Ormai siamo abituati a leggere tra le righe delle parole. No, non è che ha detto giocheremo a finale contro una grande squadra, ha detto sarà una finale tra due grandi squadre. E ha ragione, perché sono due grandi squadre. Poi è ovvio che il Real Madrid costa 5 volte l'Atletico, a me non importa nulla, cioè, perché non me ne importa veramente nulla che costi 5, 4, 3 o 2 o una volta di più o di meno. Quindi sarà va bene. Sai chi è stato il primo a pronosticare questo? A me sembrava una buttata, invece mi diceva il capo redattore di Marca, me lo diceva ieri sera, detto il primo a pronosticare l'Atletico Madrid in finale di Champions, anzi ha detto che vincerà la Champions addirittura, è stato Fabregas. Dici quando? A gennaio, a febbraio, a ottobre. Io ho detto ma com'è possibile che l'abbia detto onestamente nessuno se l'aspettava, e lui mi ha detto perché loro ci avevano giocato contro in Supercoppa e ha detto l'intensità che hanno mostrato in quelle due partite di Supercoppa io raramente l'ho vista, e quando ho visto così ho detto questi sono partita secca, arrivano e vincono la Champions. Fabregas a ottobre. Vabbè, l'aveva chiamato Moggi, dai. C'è Luca che scrive: Carlo, accade sempre il contrario di quello che dici. Tu dicevi Chelsea, forza Atletico. Luca, però, io avevo detto Real Madrid. Poi, dopo arriva anche Cruciani. Confermo, confermo. Prima giornata di Champions League, Carlo, a settembre, vince Real Madrid. No, okay, ma poi, al di là di quello, insomma, avevamo fatto l'altro giorno i pronostici con Pardo e Cruciani, che dopo le tre arrivano anche loro. E Cruciani aveva detto... mi pare Bayern Atletico Madrid, metà l'ha indovinata, metà no. Io ho detto Real Madrid Chelsea, ne ho presa mezza. Pardo non mi ricordo cosa aveva detto, ma tanto lui avrà detto che ci andavano tutte e quattro come al solito. Pure io avevo detto Real Madrid a settembre, prima che iniziassero le cose. Spero di sbagliarmi. Pardo però ha detto in finale ci vanno o il Real o il Bayern o l'Atletico o il Chelsea, ma poi vediamo. Attenzione, perché magari attenzione alla Juventus, c'è anche il Paris Saint Germain. Gli dai del Democristiano? No, io no. Convocati. Come Duccio non siamo in diretta. Cosa scrivi? Non siete in diretta, lo so. 800240024, se vuole chiama, eventualmente se è bravo o creativo nel suo intervento le inviamo pure una maglietta di tutti i convocati, che non do neanche a Tancredi Palmieri perché non ce l'ho. Pensavo perché non avessi la taglia, volevo no, essere non, un... Non, cioè solo per gli ascoltatori extra limited edition. La voleva anche Balotelli, non gliel'abbiamo data. No. La voleva Corona, non gliel'abbiamo data. La voleva chi può. Tu pensa che io a Balotelli ho rifiutato la sciarpa commemorativa di Italia-Germania quando andammo a intervistare per la CNN? Dico, mi metti una firma qua, male fa. Ah, ma ce n'è anche tu, me la dai? Cioè, no, c'è solo questa, come faccio? Male, devi dargliela. Vabbè, ma lui c'ha la maglietta, io a me non mi rimane niente. Barattavi, no? Chiamavi Raiola, si faceva uno scambio. Quello era una buona cosa. Ho visto cosa hanno scritto, cioè, non io, ma Piantanida. Visto cosa hanno scritto sul Guardian di oggi, sì. Parlavamo di banane, magliette prestampate, ci incazziamo mortalmente per la discriminazione territoriale, e poi sul Guardian scrivono che il Napoli, una nota squadra italiana molto vicina dei clan della Camorra, vorrebbe insomma acquistare Welbeck, l'attaccante del Manchester United. Hanno scritto così, Hanno scritto squadra vicina alla Camorra? Sì. Ma era firmato o era d'agenzia questo articolo? Ti ricordi chi fosse la firma? No, era un estratto comunque da giornale, non sul sito. Ma questo è passibile di super querela? Sì, di super querela da parte proprio. Di? da parte di De Laurentiis. De Laurentiis va bene che ha querelato anche gli scogli di. E da parte. Di Camp, vabbè, si potrebbe dire. De Magis, ma più De Laurentiis, secondo me. Sì. Cioè, De Laurentiis cioè, è un rigore a porta libera per una querela. Squalifichiamo la curva della redazione del Guardian. No, ma è strano perché lui ha un ottimo rapporto anche con i giornalisti inglesi. Anche perché è uno dei pochissimi italiani che quando va in Inghilterra i giornalisti sanno che possono avere dichiarazioni in inglese. Quindi è un accesso più facile come personaggio rispetto agli altri. Per cui veramente strana come cosa. Non ricordo la parola esatta che è stata usata per definire appunto vicino a Roccaforte. Roccaforte in inglese. Tu Tan credi che ne sai sicuramente più di me? Non sai come si dice. Roccaforte in Fortress? Forse Fortress. Forse sì. Adesso. Forse Fortress, mi viene in mente come. Però. Ecco, ce l'ho la frase esatta. Sì. The club from one of Italy's mafia strongholds. Hai capito? Quindi questa è l'interpretazione del Guardian sulla mi ricorda provenienza delle ricchezze del Napoli. Questa è l'interpretazione mi ricorda Guardian. Come quando Mourinho era al Porto e disse che andare a giocare, cos'era il fatto che Porto stava diventando tipo una cosa del genere, tipo Porto stava diventando pericolosa, non si poteva andare più in giro, diventata quasi come Palermo. Questo fu nel 2004, ancora non era andato al Chelsea. E per chiudere, il giornalista si chiama Barry Glendening. No, Barry, lo conosco anche. Lo chiamiamo. Ma guarda. Carambata, vabbè. Allora, mando un messaggio. Manda un messaggio e scrivi che diavolo hai scritto. What the hell did you write on today paper? And so on, cioè può confermarti anche via SMS quanto ha scritto e poi giriamo tutto al. A chi giriamo? A Palazzi? Non saprei. Lui è quello che si occupa di solito del rumor mill del day, che vorrebbe dire il mulino delle notizie di calciomercato, per cui magari è entrato in questo. Però strano che lui abbia messo un'espressione così. Allora, secondo Luca, Mourinho sarebbe il mio eroe, buffone come me, che ha toppato la quarta semifinale su 5. Un vero vincente, si fa una risatona. Semifinale, tanto per cominciare, in semifinale di Champions bisogna arrivarci, ne ha fatte 8. Questo caro Luca, quanti ne hanno fatte 8 di semifinale di Champions League nella storia del calcio? E non vale dirmi perché è una sciocchezza. Ah, vabbè, ma bravo, allena le squadre forti. Questa è la cosa più idiota che si può rispondere. Allora, quanti nella storia, Luca, quanti nella storia del calcio? Quizzone per trivial, da trivial. Quanti nella storia del calcio hanno giocato 8 semifinali di Champions League? Via il tempo. Cristiano Gatti del Giornale, mio amico. Ciao Cristiano. Buongiorno a voi. A fine ti abbiamo beccato, eh? Stavi grigliando, finalmente lavori un po', mi ha detto prima Ceccarelli. Di solito non fai niente. Senti, voglio chiederti due cose rapide. Oggi è scritto sul giornale che il servizio per cui chiude la pastificio Agnesi, storico pastificio italiano, chiude anche la fabbrica del tiki-taka? Sai, però quelle sono fabbriche che chiudono e poi riaprono, per fortuna, nel senso che abbiamo tutti la sensazione che forse si tramonti un certo sistema, una certa idea. Però io starei cauto a mettere pietre tombali, perché comunque si resta comunque nell'ambito di squadre fortissime, di società fortissime, potentissime, ecco. E comunque resta il fatto che se guardiamo alla finale di Champions, la cosa bella è che simbolicamente, mi pare di leggere, si affrontino due sistemi, due filosofie, due idee di calcio, il calcio ipermiliardario, iperorganizzato, che compro tutto del Real, che è da sempre così, e invece il calcio, chiamiamolo emergente, comunque di fantasia, un po' più artigianale, un po' più costruito, sempre relativamente ovviamente, comunque un po' più umano, sì. di Simeoni e compagnia. Io poi ho dichiarato prima che non ho niente contro quelli che ci mettono un sacco di soldi e comprano un sacco di bravi giocatori. Non ho niente contro di loro. Mancherebbe. L'importante è averli, perché sai che certo. Tu sai meglio di me che la Spagna viene da almeno 10-15 anni di doping amministrativo, bilanci sostenuti, deficit spaventosi tenuti in piedi dal sistema bancario, che ha tutto l'interesse di tenere in piedi il Barcellona, il Real Madrid, perché è chiaro che è un sistema che rende in immagine e in consenso. però nel momento in cui l'Europa ha posto anche a loro dei vincoli, le banche hanno dovuto un po' chiudere i rubinetti, mi pare capire che la festa sia finita anche lì. Sì, è finita anche lì. Poi ci sono le banche che prestano perché questi producono soldi abbastanza per pagare gli interessi, eccetera. Senti, non sono soddisfatto, non ne ho abbastanza, posso richiamarti tra 5 minuti per altri 5, per favore? Siamo qui. Benissimo, allora ci vediamo un attimo. Avremo lo Juventus Stadium alle spalle, che domani ispirerà forte e scenderà in campo con noi, ecco. Penso che i miei giocatori meritano il mio rispetto e hanno fatto tutto durante la stagione per arrivare qui. Però rigore quando è? Quando arbitro fischia! Allora. Finisce qui il primo tempo. Convocati. Allora, alle 15.30, tra una mezz'oretta dopo la pausa della mezz'ora, avremo lo speciale di Dario Ricci su Ayrton Senna. Vi consiglio di non perderlo. Intanto siamo in diretta, 800 24 0024 il numero verde, Tancredi Palmieri qui con me. Infiltrato di Altani, dei poteri forti di Win Sport, di CNN, Bean Sport, CNN e tutto quanto. Però mi preme questa storia. Allora, stavamo facendo tutto in tempo reale, espressione che detesto, però è vero, questo giornalista del Guardian, che si chiama Barry Glendening, che ha scritto. Lui ha scritto, la frase letteralmente è si parlava di Welbeck, il Napoli che sarebbe su Welbeck insieme all'Everton e al Tottenham. La frase letteralmente è, se mi sbaglio la regia mi corrigeranno, come diceva il Papa, ha detto il club da una delle fortezze della mafia in Italia, che per far accettare accogliere il giocatore, per ricevere il giocatore, deve riuscire a fargli un'offerta che non può rifiutare. Quindi, diciamo, giocava sul gioco di parole tra il fatto che c'è la criminalità a Napoli e ha usato questa offerta, un'offerta che non può, questa espressione, un'offerta che non può rifiutare, richiamando, diciamo, il gioco di parole. Beh, detto il club è una fortezza vicina alla mafia, eccetera. Sì, il hai gioco sentito di parole che Pierluigi Pardo, hai sentito? Sì, ho sentito. Ciao. Volevo far prendere un velo pietoso, ma invece parliamone, ciao a tutti. Io gli ho appena scritto, ho detto: Barry, ma vorresti un attimo spiegare la cosa? E lui mi ha risposto letteralmente proprio un minuto fa e mi ha scritto: ho semplicemente detto un fatto, non c'è davvero nulla di cui discutere. Va bene, benvenuti a tutti i convocati. Che vi devo dire, ragazzi? Purtroppo il mondo è pieno di etichette, è pieno di etichette stupide. La verità è che poi per uno che lo dice, lo scrive, quindi evidentemente è più grave. Poi ci sono tante persone che lo pensano. Sicuramente, insomma, noi italiani, adesso qui non faccio il discorso di Napoli, abbiamo tante etichette che ci portiamo dietro, alcune più lusinghiere, altre meno. È molto triste. Cioè, io credo che questo sia proprio un discorso di sensibilità giornalistica di chiunque ha una funzione pubblica, insomma, di non giocare con queste cose qui, perché evidentemente sono sbagliate, sono becere, sono generalizzanti, sono offensive, quindi sono tutto il peggio. Posso invitare a uscire a Napoli a godere della bellezza di Napoli, questo che poi, sì, poi facciamo problemi a Napoli come in tutta Italia, no? Poi però, poi diventiamo matti per le magliette con la banana, eccetera eccetera, andiamo in orgasmo totale per queste cose qui. Poi scrivono: Napoli, squadra roccaforte della mafia, vuole prendere un giocatore con un'offerta che non si può rifiutare. È tornato Cristiano Gatti, credo. Sì, sono qui. Hai sentito sta storia? Guarda, non molto, perché era disturbata la linea. Ho sentito solo la parte finale. Invidio chi sta a Napoli, ma quella è una faccenda personale. Sì, no, si diceva, hanno scritto questa cosa ed è stata confermata dal giornalista che ha scritto. Ho scritto soltanto un fatto, cioè Napoli sarebbe una squadra vicina roccaforte della mafia, hanno eccetera scritto, eccetera. Club da una delle roccaforti della mafia. Diciamo che hanno fatto hanno fatto un salto logico troppo. Sì, un salto logico, un doppio salto mortale molto ardito. Sì. Senti Cristiano, Ancelotti vincerà la Coppa dei Campioni un'altra volta? E mi dai una mano a difendere Mourinho? Me lo auguro vivamente, anche perché anni fa, l'avrete forse già detto, comunque è bene non dimenticarlo, Ancelotti fu cacciato con un pat-pat sulla spalla dalla Juve con questa patente, sì, bravo bravo, buono buono, simpatico simpatico, ma non è un vincente, è un perdente. Per fortuna gli anni della sua carriera, gli anni successivi, hanno dimostrato tutto il contrario. Non vorrei che adesso, arrivando così bene in finale con questo risultato strepitoso in Germania, che poi bastasse perdere una finale, che come tu sai può succedere, ricominciasse a dire sì bravo bravo, però la finale l'ha persa. Per cui faccio un sincero tifo per Ancelotti, anche perché così per simpatia personale mi piacciono i perdenti di successo. Vabbè, senti, al di là di quel... sì? ti presento, lo conoscerai, Giuseppe Cruciani, che mi ha raggiunto adesso, Cristiano Gatti del giornale, faccio l'onore di casa. Ciao Gri, ciao. Ah, ciao, ciao, ciao. Che succede? Ma Pardo c'è? Pardo, sai com'è col telefono Pardo, no? Allora, sai com'è col telefono Pardo, Giuseppe? Non riusciamo a risolvere questo di Parenzo problema. Più grasso. Non riusciamo a risolvere questo problema. No, sai Cristiano che ieri ero in onda e Giuseppe mi ha coperto di insulti, peso gli ascoltatori via SMS, non è vero che il tiki-taka è morto, sono tutte cazzate, sai, lui parla come mai. No, ma il problema non è quello. Tanto hai sbagliato metà della finale. Beh, metà, intanto una l'ho presa la più difficile, forse ho preso la più difficile. Ma ti è andata bene, no? Che mi è andata bene? Non mi è andata bene. La mia finale era Atletico Madrid Bayern, ho preso Atletico Madrid Real Madrid. Vabbè, d'accordo. Sai quant'era? So che tu ti piaccio. Sai quant'era l'Atletico Madrid vincente della Liga prima dell'inizio del campionato? Non so, 120, quant'è? 100. 100. Pazzesco. Vabbè, quindi morale, il tiki taka, tu quanto mi No, io ho detto una cosa molto banale, molto terra terra come al solito. La cosa è questa: tutte queste discussioni sulla fine del tiki taka, sulla fine del gioco di Guardiola senza attaccanti, e Beckenbauer e questo, eccetera. Secondo me alla fine sono ridicole. Non so cosa è finito e cosa non è finito. So solo che vedere giocare Bayern Monaco è comunque bello, ci si diverte a vedere giocare Bayern Monaco. A me diverte, è un gioco questo che diverte. Monaco. A me divertivo quello l'anno scorso. Ma quello dell'anno scorso era spietato. E io ti dico solo una cosa: che l'unico problema vero per il Bayern Monaco nel finale di stagione qual è stato? Quello di un campionato tedesco che sostanzialmente non è esistito. Cioè al Bayern è mancato che cosa nell'ultimo mese e mezzo? È mancata la tensione. Cioè è mancata la tensione della domenica, la tensione del sabato. Cioè, poi arrivi col Real Madrid quando non giochi una partita vera più o meno in campionato da un mese sì, e mezzo. Cioè, vincere il campionato con ma no, ma non è vero. No? Non ci sono vantaggi da questa preparazione, cosa. Puoi preparare meglio le partite. E comunque, se fosse entrato il gol là di Götze che si mangia il gol davanti alla porta gli ultimi 10 minuti della partita di Madrid, magari si parlava di un altro. Posso dire una cosa: il Bayern Monaco ha incontrato 3 volte quest'anno, prima di questo, sì. 3 volte una squadra che lo metteva in crisi con le verticalizzazioni: il Chelsea in Supercoppa Europea, il Borussia Dortmund in Supercoppa di Germania e poi il Borussia in campionato, prima poi di crollare negli ultimi 20 minuti. E sempre è andato in difficoltà, sempre. Ma sì, ma no, ma io non dico che tutti questi discorsi tattici che riguardano il tiki-taka, le verticalizzazioni, il gioco più essenziale di Ancelotti rispetto a quello più cervellotico di Guardiola non siano giuste, per carità, non mi permetto. Dico semplicemente una cosa: che secondo me ho questa impressione che la tensione all'interno della squadra di Monaco di Baviera, del Bayern, nell'ultimo mese e mezzo si è un po' calata per un campionato vinto a un certo punto con 25 punti di vantaggio. Questa è la mia considerazione. Poi, dopodiché, come sappiamo, la Coppa dei Campioni, la Champions League è una cosa molto casuale, cioè soprattutto dai quarti in poi si può uscire per un calcio d'angolo, si può uscire per una svirgolata, si può uscire per un errore di un attaccante. Il Real Madrid in 2 partite ha dimostrato di essere nettamente superiore, punto e basta. Cioè, Cristiano Gatti, aiutami a difendere la fine del tiki-taka, che siete fissati con sta fine del tiki-taka. Tiki-taka è finito, tiki-taka ha perso 12-0 nelle ultime due edizioni di Champions League. Però un conto è se è il tiki-taka con Iniesta e Xavi che ti fanno i tagli, un conto se c'è Schweinsteiger. In Spagna, nel Barcellona, dove è nato, un sacco di cose. Vai, aiutami a difendere Mourinho, Cristiano. Ma guarda, prima di tutto sul tiki-taka io distinguerei, prima di tumulare un sistema di gioco, lo distinguerei dai destini di una squadra che lo pratica. Scusate, non voglio fare ulteriore che confusione. Però il sistema di gioco di Guardiola lo vedremo nei prossimi, perché ci sta che gli avversari abbiano anche capito l'antifono e, come si diceva, con le loro verticalizzazioni, insomma con i loro antidoti, abbiano sviluppato gli anticorpi per mettere sotto quelli del tiki-taka. E allora questo lo vedremo andando avanti. È successo d'altronde con il calcio totale dell'Olanda, che sembrava irresistibile, a un certo punto l'hanno capito, l'hanno saputo disinnescare, sì. Sì, disinnescare. È successo con il Milan di Sacchi, così. Però invece per quanto riguarda il destino di una squadra, lì ci giocano altri fattori, ci gioca la pancia piena, ci gioca l'inevitabile destino di un certo ciclo, che a un certo punto finisce. Non esistono cicli immortali eterni, a un certo punto il ciclo arriva all'apice e poi piano piano discende. Certo. Su Mourinho? Ecco, io direi per il tiki-taka sospendiamo un attimo il giudizio. Per quanto riguarda Mourinho, sfondi quattro porte aperte. Secondo me Mourinho resta tra i primi due o tre allenatori del mondo, con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi simpatici e insopportabili difetti, ma mai nella vita io rinuncerei a un allenatore come lui, che comunque è fine psicologo, bravo comunicatore e soprattutto ha una personalità che riesce a trascinare anche gli asini, perché questo l'ha dimostrato sempre. Amen. La personalità riesce a trascinare, amen, anche gli asini. Ti lascio alla grigliata. Grazie Cristiano Gatti. Pardo, saluto, sei tornato. Ciao, Craig. Da parecchio anche. Pardo, hai sbagliato tutto il pronostico? Ho sbagliato tutto, sì, ma questo... Aveva detto Bayern... No, lui ha detto che in finale c'erano il Bayern o il Bayern-Chelsea, Bayern lui. No, io avevo detto Bayern-Chelsea. Dai, su, me lo ricordo, senza... dai. Pierluigi, ti licenzio. Sì, sì, sì. Ma ieri c'è stata abbastanza un'umiliazione, secondo me. Cioè, ieri quello che è uscito peggio prima della partita... Ah, ti ci metti anche tu. Anche tu ti ci metti. Cioè, non bastano gli ascolti, va bene, ok, allora? Bisognerà anche giudicare quello che abbiamo visto. Allora, quello che abbiamo visto è stato che Chelsea ha giocato la partita con la mossa tattica di ieri, è stata spiliqueta sulla linea dei trequartisti. Va bene, tutto, sbagliato, quindi, ok. Vabbè, ma non è che sono dettagli. Poi a spiliqueta anche quello che si è perso il giocatore sul primo gol. Sì, va bene. No, ma io non discuto spiliqueta come giocatore, discuto il ruolo. Con Oscar in panchina, tanto per fare un nome, va in vantaggio 1-0. A quel punto la partita si apparecchia anche molto bene. Nel secondo tempo, dopo l'1-1, non c'è stata mai partita. Poi, sicuramente, cioè, il Chelsea ha avuto due o tre occasioni, ma le ha avute di confusione. Le ha avute perché David Luiz salta col capoccione come mezzo matto, perché John Terry, comunque, cioè, le ha avute su situazioni di palla inattiva che fanno parte del calcio, per carità. Io non sono un purista estetico, c'è anche quello, però insomma io credo che la vittoria dell'Atletico ieri è stata nettissima, meritata, ma non c'è dubbio, ed è secondo me la vittoria di un allenatore sull'altro, e questo non significa dire che adesso improvvisamente Mourinho è un cretino. Mourinho è un grande allenatore, ma questi 180 minuti, soprattutto ieri, cioè secondo me sperava di fare l'ennesima furbata, ha sperato nell'ennesimo colpo il bis dell'andata, dai, voleva fare il bis dell'andata e risolvere la partita negli ultimi 10 minuti. Guarda, che male c'è? Che forse il gol di vantaggio ha un po' fregato lo stesso Mourinho. Sì, questo giocartela, sì. Forse con Hazard, con Oscar, con... Sì, ma Pierluigi, mai visto come stava? Mai visto come stavano questi? Cioè, Eto'o era semplicemente, ieri, sembrava semplicemente un ex giocatore. Secondo me il Chelsea ieri sera era improponibile da un punto di vista fisico. Poi, dall'altra parte... Ho capito. Ma vuol dire che dall'altra parte, a voler guardare e ad essere maliziosi, possiamo notare che le squadre spagnole arrivano sempre in fondo, che hanno un sacco di birra. Dobbiamo dire la seconda volta che diciamo un'altra cosa. Tre giorni prima eravamo tutti qui a fare il peana di Mourinho, che con una squadra di ferro che gioca in contropiede con 11 uomini dietro la linea del centrocampo respinge gli assalti per 90 minuti del Liverpool e con una palla regalata e un contropiede al 93esimo vince sulla partita più importante dell'anno per il campionato inglese. Per cui dal punto di vista fisico non credo che sia stato quello il problema. Tre giorni prima erano sul pezzo fino al 93esimo, sì, al Liverpool. Ieri sera la differenza era evidente. Sì, va bene, d'accordo, ma ci sta che quattro giorni dopo No? Io il Peana l'ho fatto fino a un certo punto. Ti dico che mi ricordo che qualche giorno fa, dopo la sconfitta col Sunderland, ho detto una cosa che penso profondamente, cioè che se il Chelsea non vincerà il campionato, come credo, in un campionato di Chapanò come quello di quest'anno, con una quota scudetto molto bassa, secondo me sarà una grande occasione persa, perché secondo me con il carisma di Mourinho e comunque con l'esperienza della squadra, il Chelsea aveva più di una possibilità di vincerlo questo campionato e probabilmente non lo vincerà. La Champions è stato un bel pensiero, molto ingombrante, che ha tolto qualche energia probabilmente in un certo momento, e ieri sera è andata come è andata. E però, come ha scritto qualcuno, zero titoli, si avvicina lo zero titoli. A parte zero titoli, io penso che ieri sia una sconfitta, anche squadra, però. Ieri è una sconfitta pesante, secondo me, per la sostanza ma anche per la forma, per come è arrivata, perché il Chelsea non ha giocato a pallone. Beh, ho capito, però se è pesante per lui, figurati per il 4-0 di Guardiola alla guida di una corazzata. Questo è adesso, dato, siccome non so se da qui alla fine di maggio, sì, tanto sicuramente ci risentiremo, però a caldo così facciamo un giro di pronostici sulla finale. Ci vediamo domani a Perugia. 4-0 e te a Perugia. Tra l'altro ti devo dire una cosa su Perugia dopo, chiamami alla fine della trasmissione. Se sputtano il presidente, il proprietario dei Clippers, perché aver detto quelle cose razziste, adesso ormai è outing totale, perché Donna Sterling è stata la sua Clippers, la sua moglie che gli ha fatto dire a che ora ci vediamo a Perugia, cioè non è che è una cosa, però no, private things, ci vediamo domani, Piera, un dibattito, e ti invito alla zanzara domani, grande invito per alle 8:20, 8:20, 8:30 vabbè, comunque in ogni caso a seguire cena con lancio di palle di pane dal tavolo di fronte, beh, chiaro, obbligatorio. Ho già assistito a una cosa del genere a Perugia tra grandi giornalisti, palle di pane. Ah, c'eri anche tu? Mi sa che è la stessa, poi diciamo di chi palle, però di pane, finale, dai, pronostico finale, 4-0 4-0 Real Madrid, 4-0 Real Madrid. Zebedei, come io dico 1-0 del Madrid. Ecco, e voi mi obbligate a dire Atletico Madrid, dire un'altra per forza di cose. Cioè, il pronostico logico è che con Mourinho avrei detto Mourinho in finale, perché Mourinho fra i Cancelotti ci poteva stare. Certo, adesso pronosticare l'Atletico Madrid, però facciamolo, che vi devo dire? Sì, pure secondo me più o meno 2-1 di misura Real Madrid, però questo è il pronostico, diciamo, della logica, il pronostico quello così, diciamo, originale, il pronostico da mattoide è, che ne so, in contropiede, solo che giocano tutte e due allo stesso modo, capito? Alla fine sono un po' speculari, Simeone. Come si fa? Cioè, 2-1 Atletico, dai. La gara di ritorno in campionato in realtà è stata dominata dall'Atletico Madrid, vero Pierre, tu che sei un cultore? Sì. Dominata. Ha avuto varie fasi, quella partita lì. No, invece io ho detto ieri e lo ribadisco che secondo me per il Real è una pessima notizia l'Atletico in finale, nel senso che secondo me Real Chelsea non c'era quasi partita, Real Atletico è una partita abbastanza equilibrata secondo me, io penso così, molto peggio, dunque? Anche perché penso che l'Atletico abbia molta personalità e poi anche dei buoni precedenti con Real, è vero che ha perso in Coppa, però in campionato comunque ha fatto una vittoria, un pareggio, e lo scontro diretto potrebbe essere decisivo anche per il campionato, e l'anno scorso ha vinto la Coppa del Re, è vero che c'era Mourinho e non c'era Ancelotti, però insomma ultimamente, insomma, l'Atletico al Real fa molta paura, no? Dopo anni in cui non c'era mai partita, per cui secondo me non è affatto una finale scontata. Io, il prossimo della logica è quello, spiegami una cosa, se arriva con 3 punti di vantaggio in campionato all'ultimo, si può permettere di perdere anche a Barcellona l'Atletico? Sì. Deve vincere le prossime due, deve vincere quelle. Quanto inciderà l'esito del campionato spagnolo su questa finale di Champions League? Ieri sera sentivo, non ricordo se Paolo Rossi, Marocchio, chi delle mille opinioni che ho sentito in TV, cioè l'Atletico il campionato e la Real Madrid la Coppa. No, dire che se l'Atletico Madrid perderà il campionato, perderà nettamente anche la finale di Champions League. E perché mai? Cioè, perché per il morale, possibilmente per il morale, la reazione, però c'è il rischio della sindrome da Toppmöller, che arrivò in finale di tutto col Bayer Leverkusen e poi gli rimase tutto in mano. Però posso dire, io da settembre che sento tutti, e anch'io probabilmente, che dicono vabbè, ma adesso l'Atletico molla, invece, insomma, eccoli là, siamo arrivati al primo maggio su coraggio e mi sembra che insomma diciamo la verità, dentro di noi facciamo tutti il tifo, nonostante Ancelotti, facciamo tutti il tifo per l'Atletico Madrid. Ma non se ne parla, ma tranne lui, abbiamo tentato di convincerlo prima, ma non dice di no. Ma che mi frega l'Atletico Madrid? Ma fammi capire cosa interessa a me dell'Atletico Madrid. Io voglio che Carletto Ancelotti con una super squadra vinca la decima. Ma che me frega di Carletto Ancelotti? No, a me ne frega niente l'Atletico Madrid. Chi sta parlando? Io. Cioè, che c'è il traffico? Ma che traffico? Non c'è il traffico, Giuseppe. Hai fatto togliere, beato te. Ma sarai una volta quando eri ragazzino. Il grande potere di tutti i convocati. Senti, Paolo, ma a te ti frega qualcosa dell'Atletico Madrid? Onestamente, dai, vabbè, bella storia di calcio, gli underdog, tutte queste cose. Ma sinceramente. Carletto che alza la decima, cioè credo fosse la squadra di Francisco Franco, ma tanto alza il prossimo anno, ma non me ne frega niente il prossimo anno, io lo voglio quest'anno, il treno passa adesso. Apro una parentesi per dire che c'è stato dopo la vittoria contro il Barcellona tutta una corrente di articoli che hanno cercato insomma di far sembrare l'Atletico Madrid come una squadra essenzialmente radical, liberal. Lo è, nel senso che tendenzialmente a sinistra si è sempre dalla parte insomma almeno in linea di massima, no? Dalla parte dei più deboli, quindi sì, è che è primo maggio, dai, vabbè. No, ma voglio dire che è una storia di contropotere sicuramente rispetto a Real Madrid e Barcellona, però come diceva Cruciani, invece il passato storico della Madrid dal punto di vista politico, cioè la storia dell'aviazione di Franco, insomma, non è esattamente, diciamo, ma ieri in conferenza stampa di illuminati progressisti. Ma ieri in conferenza stampa poi Simeone ha detto: i miei giocatori sentivano la responsabilità anche di giocare contro chi ha il potere economico, per cui ma chi se ne frega, ha detto lui potere, ma va questo bene, è vero, però questo è vero, questo è vero, dai, questo è vero. Fantastico, una squadra che spende 100 milioni per Bale e perde la finale di Coppa dei Campioni contro la Atletico Madrid la trovo una cosa strepitosa, cioè non si può non battere ti fare Atletico Madrid chi ti dà il portiere che non dovrebbe giocare, esatto. E probabilmente si sta comprando anche il tuo attaccante, ragazzi, non me ne importa niente, dai, ragazzi, non si può non ti fare per l'Atletico Madrid in finale, dai. Sono dell'Atletico. È tosta non ti fare per Carlo e Carlo. Carlo e Carlo. Dai, ragazzi. Sì, Carlo e Carlo, per carità. Vabbè, però alla fine è uno, cioè, è uno. Carlo Ancelotti. Sì, vabbè, perché dall'altra parte. Vabbè, dietro. Ma che cosa? No, io per esempio, scusa, tra Carlo Ancelotti e il Ciolo Simeone, io che sai che per squadra tifo, per chi faccio il tifo secondo te in finale? Ricordi quella partita, tu non lo ricordi il precedente tra Simeone e Ancelotti? Qualcuno se voi qui se lo ricorda, ieri sera è stato riproposto, se non a meno sette forze a scala. Cosa Milan? Simeone segnò alla Juve di Ancelotti un gol fondamentale nello scudetto della Lazio, non vi ricordate niente, ragazzi, me ne vado, va. A sei giornate delle Alpi. A mo' me ne vado, stadio delle Alpi, gol di Simeone e Lazio a meno uno o meno due, non mi ricordo. Come ti ricordi? Meno due, no, uno. Mi ricordo adesso. Comunque fu una vittoria fondamentale. L'anno tra rimonta, dopo la sconfitta di Verona della Juve, dai, prima di Perugia. Era sì, va bene. Un passaggio fondamentale. Sta cercando chiaramente dei pretesti. Se vi può aiutare, tanto i nostri eventuali desiderata, ecco, non contano niente. Se vi volevo togliere questo un po' non di c'è pressione. Dubbio. Ma scusa, la trasmissione tu che fai? Cassi il nome dei. Come la chiami l'anno prossimo? Catenaccio, come la chiami? Io Catenaccio, bello il nome, Catenaccio. Catenaccio è di un sexy da morire. Catenaccio, la parola tiki-taka non è mai stata citata così tante questo volte è vero, questo è vero. Due settimane. Questo è vero. È una meravigliosa pubblicità. Ormai tutti sanno cos'è il tiki-taka, mentre all'inizio dell'anno anche il mio barbiere aveva. Dice perché hai chiamato tiki-taka questa trasmissione? Tiki-taka, no, ma è che? Ci fu il virgolettato, è che? E quindi capisci che a 4 giorni dalla prima puntata, tra l'altro, con tutta una serie di incertezze che avevamo, insomma, non fu esattamente. Anche perché uno che segue il calcio, quindi insomma. Però adesso lo sa. Ecco, Catenaccio ex tiki-taka, no. Sì. Catenaccio. Catenaccio è meraviglioso. Secondo me è una parola di un sexy da morire. È di un sexy da morire. Ma non è perché tu sei mezzo sadomaso e sto Catenaccio ti dà un'idea. Mi dà un'idea di proibito. Catenaccio è Catenaccio. No, poi la. Sai, tuo amico Caressa l'altro giorno che ha detto lì è uno slogan, no? Carlo Ancelotti, hai ucciso il tiki-taka, e Carlo che risponde: il football non muore mai. Mamma mia, questa è una grande frase. Sarebbe piaciuto di essere il protagonista di sta roba, te sarebbe piaciuto. Però anche Simeone che ringrazia le madri per lo huevos che hanno dato ai suoi giocatori è una bella maniera di rispondere. Ha detto lo huevos? Ha ringraziato le madri per aver fatto i suoi giocatori con questi huevos, con questi cojones così grandi, insomma. Invece immagine della serata, secondo me ieri, Thiago a fine partita che quasi toglie le lacrime e consola Terry, che era in condizioni, sì, sembrava veramente intontito al primo finale. Ma grande John Terry, gli hanno fatto mille punture, ha giocato quella partita e secondo me è stato alla fine il migliore del Chelsea, l'emblema di questa squadra. No? Beh, dai. Dietro si è ballato, che sembrava una anche il gol dell'1-1, gol dell'1-1, il cross del secondo tempo, quello sul quale dormono tutti, dai. Secondo me no. Sono già partiti le gag su Terry, perché lui danno la gag che ogni volta che qualcuno vince una coppa lui si mette la maglietta, perché quando era stato squalificato per la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, non mi ricordo, lui si presentò con il kit tutto preciso per alzare il trofeo e hanno detto che aveva scambiato già la maglia con l'Atletico Madrid, così era già pronto per la finale. Hai ucciso il tiki-taka? No, il football non muore mai. Vabbè, dai. Senti, abbiamo giusto il tempo per il pronosticone di giornata, caro Cruciani. Pronosticone di giornata? Eh beh. E anche lì il pronostico di la sensazione mia è che la Juventus non andrà in finale. Non, io faccio un grande tifo per la Juventus, la premessa è questa: Juventus è la mia seconda squadra. Ma sei favorevole al tifo contro? No, detto sei favorevole al tifo contro, eccetera. Sì, perché ampiamente. Assolutamente. Però credo che non ce la faccia. Sai che purtroppo non ce la farà. Per una volta nella vita gli voglio molto bene, lo conosco. Dunque da anni. Ce la farà. Ma però non è una cosa scaramantica. Credo che in questo momento la Juventus abbia, insomma, come anche se il secondo tempo di Sassuolo forse ha dimostrato il contrario, comunque abbia meno energie. Prende tanti gol. E credo che alla fine un gol il Benfica lo faccia. E l'unica salvezza di Juventus potrebbero essere, guarda, i supplementari, forse i rigori, forse 2-1, si potrebbe ripetere il risultato andata, ma comunque secondo me alla fine passa il Benfica. First time in my life, niente da replicare, sono d'accordo con lui, sottoscrivo tutto. Rapido, secco. 1-0, 2-1 e vittoria ai supplementari. Pier. Ci vuole una grande partita, proprio una grande partita. Vabbè, però dillo. Che ti devo dire? Per me è complicata, è molto complicata. Dai, pronostici, sbaglio tutti. Allora, diciamo, fai un nome. Che passa il Benfica, così passa la Juve, dai. Visto che porto sfiga per dare i pronostici, così abbiamo un italiano in finale. Io la vedo complicata, la vedo molto difficile. Oh, ragazzi, io parlo di Cruciani dalla stessa parte una volta. So anche che lo Juventus Stadium... Io e te, Cruciani, tutti dalla stessa parte per una volta. Cioè, l'unico è dura, Pantre. È dura, però so anche che lo Juventus Stadium può dare, può, sai, tipo indurre sonnolenza, come parla, cioè, può indurre giramenti di testa, quindi questo aspetto non va sottovalutato, secondo me. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Allora, il migliore di giornata e subito dopo la pubblicità speciale su Ayrton Senna. Ciao a tutti, a domani. Ciao. Alessandro da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto ti voglio aiutare nel difendere Mourinho a spada tratta, perché è un vincente. Vai, fuori lo spadone! Fuori lo spadone! Lui è il vincente. Guarda, io sono romanista, però da giocatore posso capire come lo amino e perché porti le squadre. Ma infatti, ma fosse un giocatore, ma vorrei lui tutta la vita, gli do il sangue per una stagione, vinco la Champions League, probabilmente, se no, se va male arrivo in finale, perché tanto ci arriva tutte le volte, no? E poi vediamo. Poi soprattutto la sfida della finale del Champions League è veramente marxista, è lotta di classe allo stato puro, sì. Atletico contro il Real, la working class contro ma aspetta, ma non metterli, ma non buttarli in politica, le sa, vabbè, che è il primo maggio.